Abbiamo studiato la scorsa volta che Daniel richiede, fa una richiesta, prega a Kadosh Baruch Hu. Abbiamo letto anche oggi nel Tachanun di lunedì. Ve'aer panecha al mikdashcha ha-shamem lema'an Hashem. Illumina il tuo volto, cioè voltati verso il tuo santuario desolato per Dio, lema'an Hashem. Abbiamo chiesto perché dire per Dio? Di per te. Stai parlando con Hashem in prima persona? Diventa terza persona, per Dio. Parla direttamente, leman, come all'inizio della frase, in maniera diretta, prima persona, per te, perché per Dio? Abbiamo spiegato, in base a quanto è scritto nella Gemara del trattato di Berachot, che la preghiera di Daniele è stata esaudita grazie al merito non di Daniele stesso, ma grazie al merito di Avraham Avinu. Questa cosa è allusa nel fatto che lui dice Leman Hashem, perché Avraham Avinu era il primo che ha usato la parola Adon per parlare di Hashem. E quindi usando questo nome di Hashem specifico, lo stesso che il primo che l'ha usato era Avraham, va a voler invocare la memoria, il ricordo e quindi il merito del nostro patriarca Avraham Avinu, che in questo merito a Kadosh Baruch Hu esaudisca la richiesta in quel momento di Daniele. Avraham era il primo che ha chiamato Kadosh Baruch Hu Adon, perché qual è il contenuto del nome Adon? Adon significa padrone. Avraham questo trasmetteva a tutti quanti l'idea che Kadosh Baruch Hu è il creatore e il padrone di tutta l'esistenza e di tutta la creazione, che è esattamente contro il concetto pagano che avevano, l'idea pagana che avevano le Quindi persone. l'ebraico antico Adon poteva padrone. Adon? Il padrone Ancora dell'ebraico. oggi vuol dire padrone. Signore. Infatti uno dice Cosa signore, significa signore? signore. Però signore come mio signore, come mio padrone, mio. Signore nel senso antico vuol dire Certo. questo, no? Allora, ora vediamo nel testo che stiamo vedendo oggi, al quarto capitolo di questo discorso del Rebbe Yosef Yitzchak, Le'achar ha-bakasha ha-klalit. Dopo che Daniel ha fatto la richiesta generale, Ve'atà, e ora, Shema Elokeinu, ascolta, nostro Dio, la mia preghiera, come abbiamo visto all'inizio di questo discorso, abbiamo aperto con questo versetto di Daniel, Ve'atà Shema, ora ascolta la mia preghiera. Poi Daniel entra più nel dettaglio della sua richiesta e dice, Himshich Daniel Ve'itpallel, Daniel prosegue nella sua tefilà e dice la seguente cosa, che anche questa la citiamo nel Tachanun che abbiamo detto oggi. Hate Elokai Oznecha Ushamma, ovvero ascolta, letteralmente significa porgi il tuo orecchio verso di me. Hate, porgi Elokai, mio Dio, Oznecha, il tuo orecchio, e Ushamma, e ascolta. Ok? E poi dice, Pekach enecha, apri i tuoi occhi, ureè e vedi, guarda e vedi, shomemotenu, le nostre, shomemotenu significa ciò che è shomem, shomem è deserto, desolato, le nostre terre che sono deserte, Eretz Israel che in quel momento erano in esilio gli ebrei. Ureesho memotenu, veair e vedi la città, Asher nikra shimcha aleha, la città che porta il tuo nome, cioè in generale Israele e in particolare Gerusalemme. Quindi dalla tefilà generale ascolta la nostra voce, entra, ascoltami, entra più nello specifico e dice. Qua apri le tue orecchie, ascolta la mia preghiera, apri i tuoi occhi e vedi la terra desolata e vedi la città che porta il tuo nome e fa questa richiesta. Ora, quando noi vediamo in questo versetto la parola Enecha, Enecha significa i tuoi occhi, plurale. Come si direbbe se volessimo dirlo singolare il tuo occhio? Ain. Sì. Ain. Ein è occhio e tuo occhio come si direbbe? Einha. Einha. Cioè c'è una sola yod nella parola Einha, dopo la Ein. Tra la Nun e la Kaf non c'è niente. Einha, il tuo occhio. Invece se noi inserissimo un yud, un'altra yud, prima della Kaf, prima della parola finale, allora si legge Einha e già significa i tuoi due occhi. Ah, ok. I tuoi occhi. Invece Einha significa un occhio, il tuo occhio. È una differenza subdola e dipende dalla presenza di questa yod o meno. Ora, nel Zohar è scritto, ecco, leggiamo, al Pisi Freya Kabbalah, secondo le opere della Kabbalah, e questa è una cosa che sarà citata dal Zohar, che ne parla in due posti nel Zohar, Pirush Milat Einha, e Pasuk Ze, il senso della parola Einha in questo versetto, che il senso semplice appunto è Einaim Leshon Rabbim, che vuole trasmettere la parola Einha come Einaim plurale, due occhi. In realtà, che ilu haya katuv Einha lashon yachid. Il Zohar dice che qui è come se fosse scritto Einha, quindi singolare, non plurale. Ain achat, un solo occhio. Che Moshe katuv, come è scritto nel Tehilim, nel Tehilim è scritto nel Salmo 33, Ein Hashem El Yireav, l'occhio del Signore rivolto verso coloro che lo temono. Ein Hashem, l'occhio del Signore, El Yireav, è rivolto verso coloro che lo temono, ma solo un occhio. Non ho capito. Aspetta, non abbiamo spiegato? No, una cosa prima, non ho capito. Ok, solo finiamo la frase. Ve'alkach omer, e perciò dice il nostro versetto di Daniel, Pekach Einha Ure, come se dicesse apri il tuo occhio, Einha Einachat. Cioè, visto che il Teilim dice che l'occhio unico, l'occhio del Signore è rivolto verso coloro che lo temono, allora Daniel dice, vuole evocare questa cosa e dire, quell'occhio che è rivolto verso coloro che ti temono, aprilo verso di noi perché ti temiamo, come dire, noi vorremmo rientrare in questo coloro che ti temono. E quindi apri il tuo occhio verso di noi e guardaci. Ok? Ah, vabbè, perché cioè fa leva sul fatto che su Teilim è scritto il suo occhio singolare rivolto verso coloro che lo temono, allora Daniel nella sua preghiera dice il Zohar, noi stiamo dicendo Einha, apri il tuo occhio. Quale occhio? Quello che è rivolto verso coloro che lo temono, cioè un occhio benevolente, un occhio rivolto verso, è un occhio che rappresenta un rapporto positivo, perché è verso coloro che lo temono. Che poi era questo si vuole indicare. Che poi era quello che secondo Daniele era stato chiuso perché stavano in diaspora. Diciamo, esatto, quindi sta facendo questa richiesta, esattamente, questa tefilà. Leonardo, qual è la domanda? No, è una cosa cronologica che adesso ho capito. Ah, ok, molto bene. Allora, noi però vorremmo capire qual è il significato del un occhio rispetto ai due occhi. Yesh Leavin, bisogna capire. Madua Pam Katuv Ein Hashem El Yireav, perché in un istante è scritto l'occhio del Signore è rivolto verso coloro che lo temono, mentre invece in un altro, il prossimo capitolo del Teilim, il 34, che è il David Beshanotò et Amo Lifnei Avimelech, famoso salmo che recitiamo Shabbat, lì c'è scritto Einei Hashem el Tzadikim, gli occhi di Akadosh Baruch Hu sono rivolti verso i Tzadikim. E allora, sono sempre due occhi rivolti verso i Tzadikim, perché non vanno bene, perché ci serve l'un occhio. Qual è il problema? Perché questa differenza, cos'è in altre parole la vera distinzione, in profondità, non sulla superficie, tra quando si dice un occhio e quando si dice due occhi? E perché Daniele ha voluto, secondo il Zohar, parlare dell'occhio singolare? Allora vediamo già una fonte nel Midrash che spiega la differenza tra un occhio e due occhi. Però vi anticipo che la risposta alla domanda che abbiamo fatto adesso non la vedremo subito. La vedremo in un prossimo, nel seguito di questo discorso, non in questo discorso qua. Però anticiperemo diverse cose che ci aiuteranno a capirlo. Allora vediamo il Midrash. Omer ha Midrash. Kasher bene Israel. Osim Rezzonò Shelashem Yitbarach, qualora i Bnei Israel mettono in atto il volere del Signore, Hashem Yitbarach, Azai, allora Hashem Yitbarach Mabit Alehem, il Signore li guarda, Bishtei Enaim, con entrambi gli occhi. Che Moshe Katuv, come detto quello che abbiamo citato prima del Salmo 34, Einei Hashem El Tzadikim, gli occhi del Signore sono rivolti verso di chi? Tzadikim significa quando il Tzadik è colui che fa il volere di Hashem, quindi verso i Tzadikim HaKadosh Baruch Hu guarda con due occhi. Aval però, Kasher Einam Osim Et Ritzon Hashem Yitbarach, quando non mettono in atto il volere di Hashem, Azai umabit alehem beainachat, allora guarda loro con un solo occhio. Come dice la supervisione è minore. Ok? Kmoshe katuv, come è scritto nel versetto che abbiamo citato all'inizio, Ein Hashem el yirav, un solo occhio del Signore verso coloro che lo temono. Allora, però, sì? Quello che lo temono. Questo faremo la domanda. Anche te dice la stessa cosa? Non lo so. Ascoltate un attimo. Hamuvan mikahu, da qui, dal Midrash, sembra, Shehashem Yitbarach mebit be'ayin achat, che il Signore guarda con un solo occhio, che Shebnei Israel inam osim et ritzono, no? Quando gli ebrei non mettono in atto la sua volontà, allora lui guarda con un solo occhio. Allora, se è così, perché il Zohar vuole dire che Daniel sta chiedendo a Kadosh Baruch Hu, guardaci con un solo occhio? Pekach enecha, il Zohar dice Pekach enecha, apri il tuo occhio, non i tuoi occhi. Scusa, perché? Se il tuo occhio è un livello di riguardo minore rispetto ai tuoi due occhi, perché Daniel nella sua preghiera chiede la cosa minore? Perché non aveva capito. Perché si buona umilmente, quello dovrebbe essere. Forse perché è umile, ma lui non sta pregando per sé. Un leader è umile nel senso mette il proprio ego da parte, ma quando chiede per il proprio popolo, chiede, guardiamo Mosè, cosa non ha chiesto per il suo popolo, anche che lo facevano impazzire. Vabbè, dice Mosè era Mosè. Bisogna capire. Yesh Leavin, bisogna capire, ma dua masgir Daniel bitfilato rak ainachat, perché Daniel fa riferimento solamente all'un occhio solo? Forse è un questione, vediamo se è una questione di umiltà o c'è qualcos'altro. E parashat Lech Lecha, nella parasha di Lech Lecha, Omera Midrash, il Midrash di Bereshit Rabbah dice su Lech Lecha, Ein Hashem el Yireav, il Midrash cita sulla parasha di Lech Lecha, dove Avram Avinu va via dalla sua casa e inizia il suo percorso con Sarai, eccetera. Cita il Midrash lì, questo versetto dei Teilim 33, che dice Ein Hashem El Yiriav, l'occhio di HaKadosh Baruch Hu rivolto verso coloro che lo temono, e dice il Midrash a chi è riferito questo versetto? Ze Avraham, è un riferimento ad Avraham Avinu, almeno allusivo. Ah, perché ha fatto prima la richiesta. Che Moshe Katuv, come è scritto, Ata Yadati Ki Yerre Elohim Ata. Cioè, perché coloro che lo temono è un'indicazione di Avraham, perché di Avraham è scritto nell'Ech Lecha, subito dopo che lui supera l'ultima prova, la prova della Akedah, della legatura di Yitzhak, cosa c'è scritto? Atayadati, dice l'angelo a nome di HaKadosh Baruch Hu, ora so chi Yere Elohim Ata, che tu sei timoroso, Yare, timoroso di Hashem. Colleghiamo timoroso, che è detto di Avraham, con l'occhio di Hashem che è rivolto verso chi è timoroso di lui, e il Midrash dice a chi è riferito questo versetto? Ad Avraham, che la Torah lo chiama timoroso di Hashem. Ok? Ora, 115. Ci viene spontanea la domanda che sicuramente ci è venuta in mente prima. L'Omuvan non è comprensibile. Che Ivan c'è e in Hashem e gli Reab. Se, come abbiamo citato dall'altro Midrash, l'occhio unico va ad indicare Bismanche en Israel osim rezonosce l'Hashem Yitbarach, il momento in cui il popolo ebraico non mette in atto la volontà di Hashem, allora come si può dire che lo stesso un occhio è riferito ad Avraham? Ech efshar lomar zot al Avraham, come si può dire una cosa del genere riguardo Avraham Avinu, Hanikra, che viene chiamato nel Midrash Ohavo shel Melech, l'amico migliore del re. amato dal re, cioè di Akadosh Baruch Hu. Se l'un occhio è una supervisione ridotta, data per a causa di un rispetto ridotto delle mitzvot, allora come si può dire che questo occhio unico parla di Avraham Avinu? Mi aspetterei che Avraham sarebbe considerato uno tzaddik, no? Difrat leachar avodato be'aseret ha'nisyonot, e in particolare non solo Avraham Avinu in generale, ma come viene visto dopo che ha superato tutte e 10 le prove, che ma'amar, come dice molto famoso la Mishnah, di Pirkei Avot, ba'asara nisyonot nitnasa Avraham Avinu, Avraham è stato sottoposto a 10 prove importanti e le ha superate. E allora come parlare di un occhio se il Midrash ci ha spiegato che un occhio è rivolto a chi non fa la volontà di Hashem? E due occhi sono rivolti a chi fa la volontà di Hashem. Avraham non ha fatto la volontà di Hashem? Strano. Inoltre, Gam Tzarich Leavin. L'ha fatto in anticipo. Eh? L'ha fatto in anticipo addirittura. Allora, ancora di più, no? Allora, ma kavanata inyan che Hashem itbarach mabit ba'ayin achat o bishtei inayin. Quindi dobbiamo capire meglio cos'è la differenza in profondità del discorso tra quando si dice un occhio o due occhi. Sì. Cioè rivolge il tuo sguardo, il tuo volto. Come abbiamo detto qui nel Daniel, vea er panecha al mikdashcha, anche sulla Birkat Konim si dice Yaer Hashem panav, panav, panecha, stesso termine di volto. Volto significa rivolgere lo sguardo. Sì, significa rivolgere lo sguardo e significa un'apertura. A differenza, come abbiamo detto forse in una delle lezioni ultimamente, la differenza tra il volto e le spalle, no? Che rappresenta un'apertura più grande. Allora, qui entriamo un po' ora nella spiegazione. Abiur, la spiegazione. David Amelech Omer El Hashem Itbarech. David, nel Salmo 94, verso 5, dice così. È il Salmo che leggiamo mercoledì, Salmo del giorno, Ken Nekamot. David Amer dice così: Amecha Hashem Yedakeu, essi, o Signore, essi, cioè i nemici, opprimono il tuo popolo, Yedakeu, opprimono Amecha il tuo popolo, Venachalatecha Yeannu, e affliggono, fanno soffrire coloro che tu chiamasti la tua eredità, cioè Israele. Eccetera, eccetera, vayomeru, e dicono, lo ire, non vede Dio, ve lo yavine lo che Yaakov, il Dio di Yaakov non capisce. E il salmista David Amelech continua e dice, com'è possibile dire, pensare una cosa del genere? Binu boarim ba'am, riflettete ignoranti nel popolo, uchsilim, e stupidi, matai taskilu, quando imparerete? Hanotà ozen alo ishma, colui che ha formato l'orecchio potrebbe non udire. Im yotzer ain halo yabit, colui che ha formato, ha creato l'occhio potrebbe non vedere. Eccetera, eccetera. E allora la domanda che noi ci poniamo, in teoria, quello che Davide sta dicendo qui è una cosa estremamente palese, normale. Non è qualcosa che David Amelech dovrebbe spiegare. Yesh Leavin, ci sarebbe da capire, ma masbir kan David Amelech, cos'è che sta spiegando qui a noi David Amelech? Harei elu dvarim, questi sono dei temi, dei concetti, shafilu adam pashut, mevinotam, anche una persona semplice, le capisce, le apprezza. Per spiegare un pochino ulteriormente, cita il Rambam, dove il Rambam nel Morea Nevuchim, cioè nella Guida dei Perplessi, nella sua famosa opera Guida dei Perplessi, il Rambam dice Mevil Kach Mashal. Il Rambam fa una metafora per spiegare questa cosa e dice così: Baal Melacha, un artigiano, Yacholi Yatzer Keli, può creare un oggetto, Raki Makeli Shehu Ose Musag Bemochob Ubelibo. Non può creare un oggetto che non si trova prima nella sua mente e nel suo cuore. Chiaro che prima il progetto ce l'ha in testa e poi può venire nelle mani e creare fisicamente l'oggetto. Shim lo ken, se così non fosse, en hu yachol yatzera keli, l'artigiano non potrebbe creare quell'oggetto. O bifrat, in particolare, se è un oggetto funzionante e utile, quindi che ha un certo senso, uno può dire sì, posso fare, sì, però che utilità avrà, che funzione avrà? Ubifrat li yatzer keli mushlam, in particolare per creare un oggetto perfetto, perfetto nel senso che può essere utilizzato per qualcosa, benitzul amale sheashimush bakli tzarich leavi, e cioè un oggetto che porterà, aiuterà a portare a termine il motivo per il quale questo oggetto è stato creato, cioè una funzione, un lavoro, quello che è. Muhrach hakeli liyot musag bemochov velibo shel ba'al ha-melacha, è chiaro che quell'oggetto deve già essere chiaro nella mente di chi, dell'artigiano che lo vorrà creare. Allora il Rambam dice, questa è una metafora per dire, gam etzel Hashem itbarach, anche quando parliamo chi viachol, per così dire, di Akadosh Baruch Hu, 117, im nomar, se noi dicessimo, Shashem itbarach, e ino yodea al kohot ariyah v'ashmiah, che Akadosh Baruch Hu non conosce l'idea del visto e dell'udito. Echa ya Hashem itbarach boret kli ariyah v'ashmiah. Allora com'è che Hashem crea gli utensili che fanno sì che si possa vedere e ascoltare l'occhio, l'orecchio? E così dice Rambam, si spiega quello che David HaMelech sta dicendo qui, che è una cosa abbastanza banale, tra virgolette, palese. Arekol zemuvan gam l'anashim apshutim biyoter, è una cosa abbastanza semplice. Ma in ken rotze David HaMelech lomar? Dobbiamo dire per forza che David HaMelech vuole dirci qualcos'altro di più profondo che ancora non abbiamo captato. E vorremmo capire meglio cos'è che ci sta dicendo qui David HaMelech quando ci dice... Colui che ha creato l'occhio vede, come si può dire che non vede, come si può dire che chi ha creato l'orecchio non guarda, non ascolta. Allora Daniel, ricapitolando, ha detto nella sua tefilà, rivolgi, apri il tuo orecchio verso di noi, verso di noi, e apri i tuoi occhi e guarda, e abbiamo detto occhio, c'è scritto nel Zohar, non due occhi ma un occhio. E allora... Perché parlare di un occhio se vogliamo essere considerati tzadikim? Perché il Midrash ha detto che Akadosh Baruch Hu guarda con due occhi chi fa la sua volontà e con un occhio chi non mette in atto la sua volontà. Giusto? Tra l'altro, il Midrash dice anche in un'altra fonte che Avraham Avinu viene considerato quello che ha visto con un occhio solo. Perché? Avraham Avinu dovrebbe essere il primo ad essere visto con due occhi, secondo il Midrash che abbiamo visto. Abbiamo citato il versetto di Teilim, dove parliamo di Akadosh Baruch Hu come colui che vede tutto e sente tutto, perché pensare che fosse diversamente sarebbe folle, non avrebbe senso, e abbiamo chiesto cosa ci dice di nuovo di così profondo qui David HaMelech, e abbiamo citato la metafora del Rambam. Allora, nella prossima lezione entreremo nei concetti profondi che sono dietro a tutto questo e ci chiarirà molto meglio tutte queste fonti e tutte queste idee che abbiamo visto. Ogni cosa come un puzzle rientrerà nella sua posizione. Allora, questo sarà, se Dio vuole, nella prossima lezione. Grazie. Grazie. Domani. No.